Gli speciali di Radio 24. L'anno che è passato. L'anno che è passato e che sta passando in questi ultimi giorni, in questa vigilia di Natale, è decisamente un anno straordinario. Certo, potremmo dire che per un verso o per l'altro lo sono tutti, ma quello che abbiamo vissuto collettivamente a livello planetario in questo 12 mesi, in questo anno appunto, ha davvero dell'eccezionale, del sorprendente per alcuni versi, dell'incredibile, anche se di certo non c'è nulla di incredibile nella presenza di qualcosa che è parte essenziale in termini biologici della nostra vita, il virus ovviamente. Covid-19, grande protagonista, inevitabile da dirsi, di questo anno appunto che si va a concludere. Allora, intanto sono Gigi Donnelly, sono con tutti i colleghi di Radio 24, con Andrea Roccabella in regia, con Danilo Ditrani che ha collaborato nella raccolta delle voci dei suoni di questo anno. Ecco, io sono qui proprio a condurvi attraverso un percorso, un anno che sembra strano, sembra quasi dimenticato, non era iniziato con il Covid, era un termine addirittura non sconosciuto in assoluto, ma certamente noto solo a degli specialisti. Un anno che iniziava invece con un attacco aereo, all'aeroporto di Baghdad, un omicidio mirato con un drone effettuato nel pieno della notte, deciso dall'amministrazione del governo degli Stati Uniti, dall'amministrazione di Donald Trump, che così di fatto iniziava i suoi ultimi mesi di mandato. Un omicidio mirato, quello di Qassem Soleimani, che ha dominato, ecco, le prime ore in termini di informazione di Hard News di quell'anno e di quest'anno, e poi tutto in realtà è stato cancellato, prima in maniera quasi timida. Il 23 gennaio il governo cinese mette in quarantena la metropoli di Wuhan, dunque Covid-19 appare sulla scena. E allora cominciamo subito con l'aiuto di Raffaella Calandra, che ci racconta una prima memoria di quello che ha significato l'esplosione in forma drammatica della pandemia, un nome che è diventato suo malgrado noto a livello internazionale, quello del comune di Codogno, che sicuramente ne avrebbe fatto come tanti luoghi volentieri a meno, ma appunto tra la fine di gennaio e febbraio diventa davvero un luogo sotto i riflettori del mondo intero. Vi parlo da un paese in coprifuoco, vi parlo da Codogno, uno dei comuni della Lodigiano, centro del contagio italiano da coronavirus. Qui nel centro storico il silenzio accompagna i passi mano a mano che passano le ore dall'invito a restare nelle proprie case. Questa è sicuramente stata una situazione che nessuno in Italia, quantomeno dal dopoguerra ad oggi, ha mai vissuto. State a casa, fatelo per voi e per gli altri. Il 20 di febbraio mi sono trovata di fronte un ragazzo giovane con una polmonite gravissima. Il protocollo non considerava Mattia a rischio di coronavirus. Signore di 42 anni che mi ha stretto la mano, ma che giurami che mi sveglio. Io sono crollata in un pianto, gli ho fatto una promessa che non lo so se si la potrò mantenere. Ci hanno dirottato qui perché a Bergamo non c'è più posto. La gente al di fuori non si rende conto di quello che c'è. In alcuni momenti riuscire a ottenere il ricovero di pazienti con determinate caratteristiche è stato difficile. Senza appunto questa intuizione non si sarebbe andati oltre. Sono stato curato all'ospedale di Pavia, per me era proprio un ringraziamento. Io ho passato più di tre settimane in terapia intensiva, quindi in realtà ero in coma, ero morto. Per me respirava solo la macchina. Questi erano dunque i primi segni di una presenza drammatica, ripetiamo, in un inizio d'anno che ovviamente aveva previsto altri appuntamenti, alcuni erano fissati da un sacco di tempo. Uno di questi era The eyes to the right 330, the nose to the left 231, so the eyes have it, the eyes. 31 gennaio, era mezzanotte, il Regno Unito cessa ufficialmente di essere uno Stato membro dell'Unione Europea. Inizia così un periodo di transizione lungo 11 mesi, lungo tutto il tempo possibile, con tutte le difficoltà che avete sentito fino all'ultimissimo momento. Torneremo su alcuni, naturalmente, grandi eventi. Adesso però proseguiamo il racconto con Raffaella Calanda di quello che è stata la prima ondata. I timori sono cresciuti ogni giorno insieme ai dati del contagio, poi in una notte tutto precipita e quello che prima sembrava impossibile diventa realtà. Non più soltanto Codogno e altri 10 comuni dell'Odigiano erano la Wuhan d'Occidente, un'area chiusa con l'esercito a sbarrare l'ingresso, ma nell'intera Lombardia, la regione più ricca e produttiva d'Italia, nessuno più poteva uscire dai confini. Per le parti della Lombardia e delle altre province del nord ci sarà vincolo di evitare ogni spostamento, vincolo per tutte le persone fisiche, in entrata e in uscita dei territori, anche all'interno dei territori. Le indiscrezioni, poi il passaparola generale, fino alla pubblicazione della bozza di quel decreto di ora in ora fanno crescere lo sgomento e migliaia di persone, prima della firma alle 2 di notte del decreto, partono soprattutto da Milano verso il sud o verso le seconde case, in una fuga come in cerca della salvezza. Stiamo andando a Bari, Puglia. Ho sentito che c'è un controllo a Brennero. Io avevo già il biglietto di ritorno, quindi credo che per oggi ce la faccio rientrare. Devo tornare giù e niente, aspetterò che questa situazione si risolva per tornare poi a Milano. Starò a casa. Quindi quarantena, esatto. Ma ben presto, non più solo la Lombardia e altre 11 province, ma tutta l'Italia e poi anche tutte le imprese vengono chiuse. Primo paese occidentale ad essere investito dalla pandemia, la sfida più dura dal secondo dopoguerra. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione «Io resto a casa». Non ci sarà più una zona rossa, ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. È la crisi più difficile che il Paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo. La decisione assunta dal Governo è quella di chiudere nell'intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni, servizi essenziali. Stordita, scioccata, l'Italia si ritrova senza adeguati strumenti, mancano medici e respiratori e qualche volta i pazienti vengono mandati negli ospedali in Germania. Da noi arrivano medici anche da Cuba, si aprono strutture da campo e in questa guerra l'Italia ogni pomeriggio aspetta il suo bollettino in TV alle 18 col rito della conferenza stampa della Protezione Civile. Allora, diamo lettura del bollettino di oggi. Il totale dei guariti incrementa di 943 persone, il numero delle persone attualmente positive incrementa di 4.821 persone. Purtroppo dobbiamo anche registrare quest'oggi un incremento dei deceduti di 793 nuovi deceduti. Purtroppo le persone decedute sono 969. È in provincia di Bergamo che il virus dilaga più che altrove e si porta via anche il diritto al lutto. Non c'è il congedo dai propri cari che passano in solitudine le ultime ore nelle terapie intensive, né possono essere celebrati i funerali. A Bergamo la chiesa Ogni Santi del cimitero diventa un'enorme morgue per salme che non possono ricevere le lacrime di chi li ha amati, e la notte del 18 marzo e poi per altri giorni lunghe colonne dei camion dell'esercito saranno costrette a portare altrove quelle salme. L'Italia è sotto shock. Abbiamo lasciato Bergamo, il fronte di Bergamo, per un giorno per venire qui a portare la voce di una terra duramente provata. Non sappiamo più dove portare i morti, ma non sappiamo più neanche dove mettere i malati. Stiamo vivendo una pagina triste della nostra storia. Abbiamo visto immagini che sarà impossibile dimenticare. Alcuni territori, e in particolare la generazione più anziana, stanno pagando un prezzo altissimo. Desidero anche esprimere rinnovata riconoscenza nei confronti di chi per tutti noi sta fronteggiando la malattia con instancabile abnegazione. I medici, gli infermieri, l'intero personale sanitario, cui occorre in ogni modo assicurare tutto il materiale necessario. Il 20 marzo, nei giorni più bui, solo sul sagrato della Basilica, sotto la pioggia, davanti ad una piazza disperatamente vuota, Papa Francesco prega per l'umanità spaventata da una tempesta improvvisa su cui sono scese, dice, fitte tenebre. Alle sue spalle lo stesso crocifisso portato in processione durante il flagello della peste. Ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastonare dalla fretta. Non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie. Non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo. Svegliati, Signore. Lazzaroni Maurizio, Pelliccioli Irma. Ci sono poi dei piccoli paesi dove ogni famiglia ha avuto un lutto e i morti di pochi mesi superano quelli di tutto l'anno precedente. Siamo nella Val Seriana, ad Alzano Lombardo e a Nembro, che conterà 188 vittime tra febbraio e marzo, vittime ricordate poi in un'unica messa. Si muore spesso per mancanza d'ossigeno, come denuncia un farmacista di Alzano. Domenica 8 marzo io ho avuto 42 chiamate per bombole d'ossigeno. Io avevo zero bombole. Io penso che non mi vergogno di aver pianto 42 volte, quando non sapevo cosa dire alla gente, che mi diceva: io come faccio, mio marito, mio nonno, mio padre. Ma perché quest'area non fu chiusa da subito, come i comuni dell'Odigiano, è l'interrogativo che immediatamente ha gonfiato di domande e di rabbia l'animo di chi ha perso familiari. Ed è anche il tema di un'inchiesta ben presto aperta sulla mancanza della zona rossa. Come inchieste si aprono intorno alla strage che si consuma all'interno delle residenze per anziani. I più fragili vengono contagiati e muoiono a centinaia. Il Pio Albergo Trivulzio di Milano ne diventa il simbolo. Siamo qui per ricordare i morti e per dare un virtuale abbraccio ai vivi. Oggi sappiamo che all'interno del Pio Albergo Trivulzio ci sono ancora persone che non stanno bene. Io soprattutto vorrei che mia madre potesse avere il conforto di vedermi, cioè di rendersi conto che non è abbandonata. Io vedo che sta calando di tono, non sappiamo cosa succede dentro, come facciamo a saperlo? Cioè... Questo accade tra febbraio, marzo, i primi giorni d'aprile, ed è anche il tempo in cui l'Unione Europea inizia a intervenire con quella che poi si dimostrerà essere una trasformazione davvero epocale per un continente che, causa Covid-19, si vede ad essere unito come probabilmente non è mai stato prima. Gli speciali di Radio 24. L'anno che è passato. L'anno che è passato è anche quello durante il quale causa Covid, l'Unione Europea ha compiuto alcune delle più significative trasformazioni della sua storia, non solo dell'Unione, ma di tutto il percorso appunto europeo post-bellico. Lo ha fatto nel momento in cui si è di fatto unita, costringendosi ad adottare davvero un cambiamento radicale, uno dei quali è quella della costituzione di un proprio debito, che naturalmente, ora lo sappiamo, va a finanziare una serie di interventi di sostegno ritenuti essenziali per il mantenimento di una qualità minima in quello che è appunto l'Unione degli Stati a 27. È stata una vicenda naturalmente segnata da trattative, tensioni, scontri. Ricordate magari quella con l'Olanda, il premier olandese Mark Rutte, sentiamolo. In questo momento Rutte sta attraversando la strada delle sue città, della sua capitale. Ci sono un gruppo di appunto cittadini olandesi che gli dicono: premier, non vogliamo che tu dia i nostri soldi agli italiani. Sono i momenti forse anche più tesi di quella trattativa, appunto, che cambia probabilmente per sempre l'Unione Europea e che il presidente del Consiglio Conte ricorda, o meglio segnala, così in un file audio che abbiamo raccolto proprio il 24 aprile. Tutti e 27 paesi hanno accettato, abbiamo accettato di introdurre, per reagire a questa crisi sanitaria, a questa emergenza sanitaria, economica e sociale, uno strumento innovativo, il Recovery Fund. Sarebbe un fondo per la ripresa con titoli comuni europei che andrà a finanziare tutti i paesi più colpiti, tra cui l'Italia, ma non solo l'Italia. È una importante perché è passato anche il principio che è uno strumento urgente, è uno strumento assolutamente necessario. L'Italia è in prima fila a chiederlo e devo dire la verità che la nostra iniziativa con la lettera firmata agli altri 8 paesi è stata molto importante, perché uno strumento del genere era assolutamente impensabile sino adesso. È un nuovo strumento che si aggiungerà a quelli già varati, renderà la risposta europea, ci auguriamo, molto più solida, molto più coordinata, molto più efficace. E poi, nei primi giorni di maggio, Silvia Romano, dopo 18 mesi nelle mani dei rapitori, viene liberata. Silvia Romano, 25enne, milanese, laureata in una scuola per mediatori linguistici per la sicurezza e la difesa sociale. Quando torna, si presenta con un velo, dice: il mio nome è Aisha. Libera Silvia Romano, la cooperante italiana rapita in Kenya nel 2018, in Somalia, ha già salutato la madre. Buonasera dalla redazione, buona serata da Anna Migliorati. La bella notizia ve l'abbiamo data già nella nostra breaking news, e dunque libera Silvia Romano. L'annuncio è arrivato direttamente da un tweet di Palazzo Chigi in cui il premier Conte ringrazia i servizi segreti. Volontaria di una onlus, 25 anni, era stata rapita a novembre del 2018 da un commando di uomini armati a circa 80 km a ovest di Malindi, in Kenya. La ragazza, da quanto si è appreso, ora in Somalia. Poco fa ha potuto parlare anche con la madre, ma vi daremo appena possibile altri aggiornamenti. E dalla vicenda di Silvia Romano ci spostiamo a Minneapolis. Era il 25 maggio, naturalmente, di quest'anno, la morte di George Perry Floyd. Una vicenda violenta, una vicenda che rifà esplodere quello che è il grande tema della tensione razziale negli Stati Uniti. Ci spostiamo negli Stati Uniti, dove monta la protesta dopo la morte di un afroamericano soffocato dalla polizia a Minneapolis. Minneapolis brucia. Al terzo giorno di proteste nella città è stata mobilitata la Guardia Nazionale del Minnesota e il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Ma le manifestazioni sono proseguite e si sono intensificate tra nuove violenze, scontri con la polizia, incendi e saccheggi di negozi estesisi alla vicina capitale statale di St. Paul. Una stazione di polizia è stata evacuata e data alle fiamme. La rabbia è esplosa per l'uccisione di un afroamericano, George Floyd, da parte di 4 poliziotti, uno dei quali, dopo averlo ammanettato e gettato a terra, gli ha piantato piantato un ginocchio in gola per 9 minuti, soffocandolo. L'FBI e il Dipartimento della Giustizia hanno reso noto ieri che le indagini hanno priorità assoluta, ma finora i 4 agenti sono stati licenziati, non incriminati. Non abbastanza per i dimostranti, le proteste contro l'uccisione di Floyd e contro il razzismo e gli abusi da parte di forze dell'ordine contro le minoranze etniche sono così continuate, si sono allargate anche ad altre città americane. Scontri sono verificati a Manhattan con 30 arresti e manifestazioni sono scattate da Los Angeles a Chicago e a Denver, dove colpi d'arma da fuoco hanno portato al lockdown del Parlamento locale. Anche numerosi capi agenti di polizia nel paese hanno condannato pubblicamente le azioni degli agenti di Minneapolis. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. La tensione razziale dunque negli Stati Uniti, una vicenda che torna naturalmente dai precedenti della storia nordamericana e che segnerà tutto il percorso fino alle elezioni di novembre. Intanto siamo arrivati ai primi giorni di giugno. La situazione della pandemia cambia di nuovo, molla la presa, il caldo, la speranza di avere voltato pagina, e c'è un momento simbolico, specifico, è il 2 di giugno, il giorno in cui il presidente Mattarella va a visitare Codogno. Il silenzio della prima zona rossa d'Italia è rotto dagli applausi degli abitanti di Codogno, che si incontrano di nuovo nelle strade addobbate col tricolore per accogliere il capo dello Stato. Perché qui, dove tutto è cominciato, scandisce Sergio Mattarella, oggi si ritrova la Repubblica. Questo è il tempo di un impegno che non lascia spazio a polemiche e distinzioni. Tutti siamo chiamati a lavorare per il nostro Paese. Qui a Codogno, in questa casa comunale, oggi è presente l'Italia della solidarietà, della civiltà, del coraggio. Il 2 giugno, nel giorno della festa della Repubblica, gli abitanti di Codogno riscoprono la fiducia. È dura, è stata dura, perché ha toccato tutti. Questi due sentimenti che si uniscono, da un lato ricordo di chi è stato provato dal virus, e dall'altro la ripartenza, dobbiamo ripartire alla grande perché non possiamo stare fermi. Sembrava di vivere in un film. Ancora adesso penso che se uno dica arrivo da Codogno ci sia un po' di diffidenza. Quando le frecce tricolori sono passate su Codogno mi sono sentita veramente viva per la prima volta dall'inizio della quarantena. Ma è l'Italia intera a volersi lasciare alle spalle lo shock dei mesi passati. Le strade tornano ovunque a vibrare di vita per un'estate che sembrava dovesse essere tutta italiana, secondo l'auspicio del premier Giuseppe Conte, mentre elencava in Parlamento gli aiuti per il mondo del turismo. Colgo l'occasione per invitare tutti i cittadini a fare le vacanze in Italia. E questo è il modo migliore per contribuire al rilancio. L'Italia si riapre al mondo, quasi non controlla più i bollettini del contagio che scendono anche sotto i 200 al giorno. Si discute invece sul virus clinicamente morto e sulla distanza tra gli ombrelloni. Ma a metà luglio ecco che di nuovo vengono isolate alte cariche virali ed è da lì che per il direttore del laboratorio di virologia del San Raffaele, Massimo Clementi, ricomincia a correre il virus mai del tutto svanito. Ovviamente l'Italia non vive protetta da una campana di vetro rispetto ai paesi circostanti, e intorno a noi, alle nostre frontiere, c'erano anche alcuni paesi che avevano la situazione un po' meno sotto controllo della nostra, e ovviamente con i viaggi, con le vacanze, anche con il lavoro, sono stati importati dei virus che anche da noi è ripreso. Le spiagge si affollano, come soprattutto i locali notturni. Gli italiani partono anche per l'estero, ma ben presto altri paesi europei avranno situazioni di contagio peggiori. Un quadro ben chiaro al ministro della Salute, Roberto Speranza. Ora c'è un'altra fase che non è semplice, perché i numeri del contagio crescono in tutta Europa. Abbiamo numeri molto alti che arrivano da Francia, Spagna, Olanda, Gran Bretagna. C'è il solleone quando si impone la quarantena o il tampone per i rientri da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Da mercoledì chiuso in casa, il 15 agosto, dal 15 al 20, venga avanti. Ogni tanto fa notizia qualche singola zona rossa, chiusa ad esempio tra le proteste in un quartiere di Mondragone, cittadina dell'Alto Casertano, ma nulla sembra scalfire il desiderio di divertimento. E sulle rotte del turismo, la Sardegna, da regione Covid-free, diventa uno dei più temuti focolai. Siamo stati al nord della Sardegna, ad Olbia. Oh, il tampone lo faremo comunque. Non sarei andata se sapevo. Cluster di contagio vengono ricostruiti nelle più famose discoteche. Da feste affollate il virus si diffonde nella penisola, si corre ai ripari con la chiusura dei locali da ballo, ma solo dopo aver permesso il pienone di Ferragosto e i sindacati di categoria insorgono. Il presidente Maurizio Pasca. Era una sentenza già annunciata, è partita una campagna di criminalizzazione nei confronti delle discoteche. Prendiamo atto del provvedimento che è passato solo aumento dei contagi, ma noi sinceramente non ci sentiamo assolutamente responsabili. Il 31 agosto il bollettino dei contagi segna 996 casi e 6 vittime. Le cronache di quel giorno segnalarono la risalita. Intanto nei primi giorni d'agosto ritroviamo uno di quegli eventi che, come abbiamo detto prima, come la Brexit, l'annuncio a inizio gennaio, era dunque previsto. Previsto perché? Perché mi riferisco alla costruzione, completamento del ponte che andava ed è andato a sostituire quello tragicamente crollato a Genova, ovviamente il ponte Morandi, il nuovo ponte che ricostituisce l'integrità di quella città spezzata appunto nell'estate di 2 anni prima. Alle 11.41 del 14 agosto di 2 anni fa crollava una parte del ponte Morandi che dal 1967 faceva parte della città di Genova. 43 persone sono morte, centinaia sono stati feriti, centinaia gli sfollati. Siamo arrivati al 3 agosto 2020 e dopo quasi 2 anni viene inaugurato questo ponte che, come dicevo, si chiama Ponte San Giorgio. Da Genova c'è Andrea Ferro. Andrea, buonasera. Buonasera Enrico, buonasera agli ascoltatori e buonasera, vi parlo dal ponte Genova-San Giorgio, vi parlo dalla carreggiata direzione Genova dove è stata allestita una sorta di tribuna stampa dalla quale seguiremo l'inaugurazione, la cerimonia di inaugurazione del ponte. È atteso agli istanti ormai il Presidente della Repubblica Mattarella, è già arrivato il Presidente del Consiglio. Ospiti dunque l'intero governo, come dice tra un istante Andrea Ferro, presente ovviamente anche l'uomo che ha disegnato il nuovo progetto, il genovese architetto di fama internazionale Renzo Piano. Voglio dire una cosa, guardate che ci deve insegnare una cosa questa avventura, questa terribile avventura, che il paese ha bisogno di un grandissimo progetto di manutenzione. L'Italia ha bisogno di un grande rammendo, di questo ha bisogno l'Italia, e questo sarà un modo per immettere direttamente ossigeno nelle vene dell'economia. Agosto 2020, soltanto un giorno dopo, su un'altra parte del sud del Mediterraneo rispetto alla Genova che ricostruisce, la terribile esplosione nel porto della capitale libanese Beirut. Che cosa accade? L'esplosione è legata ed è stata successivamente collegata a 2750 tonnellate di nitrato d'ammonio che erano state confiscate nel 2014 da parte del governo libanese a bordo di una nave abbandonata e depositate nel porto senza misure di sicurezza fino al giorno del disastro, appunto 4 agosto 2020 alle 18.08, 200 morti immediatamente, 7.000 feriti, circa 240.000 persone nella capitale libanese che si ritrovano senza casa. Nelle stesse ore, qualche giorno più tardi, un voto invece ai confini di fatto per noi orientali dell'Europa, mi riferisco a Minsk, alla Bielorussia. Lukashenko, al potere da oltre due decenni, vince nuovamente le elezioni, ma lo fa in un modo che porta di fatto alla protesta. Nessuno crede al risultato. Ecco, questa vicenda drammatica che coinvolge evidentemente e direttamente l'Europa porta alla grande protesta e alla repressione e alla difesa da parte soprattutto di un gruppo di donne, di attiviste politiche, di un'opposizione sistematica alla linea appunto della riconferma da parte del presidente Lukashenko. Tutto questo porta anche pochi giorni fa, il 16 dicembre, vedere attribuito all'opposizione bielorussa, il premio Sakharov, che è di fatto la più alta onorificenza che viene riconosciuta per chi lotta per la tutela dei diritti civili. E così dunque, questi sono alcuni passaggi di questa estate che abbiamo detto ha dato tregua, ma non per molto, sul fronte del grande protagonista di quest'anno. Allora con Raffaella Calandra ripercorriamo la fase dell'autunno del Covid. Sì, sì, tutti i bambini che mandano il pediatra, il medico, un po' di raffreddore, qualcosa, li mandano qui. Io sono stata contattata dall'ASL per fare il tampone a mia figlia, avevo appuntamento oggi a San Paolo, mi hanno detto che ci sono dalle 6 alle 8 ore d'attesa, mi hanno mandato qua al San Carlo e qua vedo che è la stessa cosa. Dovevano organizzarsi prima, non si sapeva che andava a finire così. Giustamente, però un bambino che sta mancando a scuola, ha la tosse e mal di gola, io devo stare in questa coda, ci sono 3 chilometri di coda. Succede quasi in tutte le città d'Italia. Tra il ritorno dalle vacanze, la riapertura delle scuole e la progressiva ripresa dei contagi, da Milano a Napoli a Roma si registrano code di ore per sottoporsi ai tamponi. Stavolta i nuovi positivi sono sparsi in tutta la penisola. Preoccupa la Campania, per giorni tra le regioni con più casi, insieme alla Lombardia, ma senza le stesse strutture sanitarie. Così i medici, come il numero 2 dell'Ordine regionale Bruno Zuccarelli, lanciano allarmi. È un atto di grande responsabilità da parte di tutta la popolazione quando la situazione rischia di diventare drammatica. Ecco, ma quanti medici servirebbero in questo momento? Già oggi servirebbero 250 anestesisti. Non vorrei vedere le bare dei carri dell'esercito. Per questo ci vuole un grande sforzo della politica, dei tecnici, ma della popolazione che deve essere responsabile. Non si può continuare a una situazione di allegria quando c'è poco da stare allegri. La seconda ondata dell'epidemia all'inizio dell'autunno non è più dunque solo un timore. In Campania il neo riconfermato presidente Vincenzo De Luca annuncia il 23 ottobre un nuovo lockdown perché siamo vicini alla tragedia, paventa. Ma la prospettiva di una serrata porta migliaia di persone in piazza a Napoli e sul corteo dei commercianti prevale la guerriglia di antagonisti ultraviolenti e varie galassie organizzate. Il timore di una rivolta sociale riflette lo scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni. La Campania è in ginocchio, all'attività commerciale tutto un mondo veramente è allo stremo e in più c'è una problematica relativa al sommerso, lo sostiene moltissime famiglie che non hanno quindi diritto agli aiuti di Stato. Queste persone sono disperate, sarebbe assurdo fingere che questa gente non esista, non considerarlo nell'attuale momento disperato di questa città e in generale del meridione d'Italia significa innescare una bomba sociale fingendo che non ci sia. Proteste violente incendiano poi anche Roma, Torino e Milano e la prospettiva di nuovi lockdown retrocede in attesa di ristori per le attività chiuse. Ma la curva dell'epidemia sale ormai a livelli esponenziali, avvertono gli esperti. Troppi i contagi, soprattutto su Milano città, epicentro della seconda ondata, e il tracciamento salta, ammette Vittorio De Micheli, direttore dell'ATS di Milano. Milano ha raggiunto delle dimensioni tali che non riusciamo ad arrivare a identificare velocemente le persone che hanno bisogno di mettersi in isolamento, non contagino altre persone. In questo momento, ahimè, cominciamo ad andare in ritardo. L'ospedale della Fiera torna a riempirsi, le ambulanze tornano a solcare numerose le strade, dagli ospedali i medici come Andrea Gori, primario di malattie infettive della Policlinico di Milano, sollecitano restrizioni. Un aumento del numero dei casi che afferiscono al pronto soccorso e aumento anche della gravità. Abbiamo quindi provveduto ad aumentare il numero di posti letto Covid. Siamo tutti preoccupati di un evolvere verso un numero di casi molto maggiori che ci sicuramente metterebbe in crisi. Quello che noi abbiamo dato alla politica è un segnale di urgenza. Bisogna iniziare a lavorare immediatamente e bisogna essere pronti a fare delle denunce importanti. L'Italia stavolta non può permettersi un nuovo lockdown generalizzato. Le incertezze economiche e la tenuta sociale del paese non lo consentono. Così la penisola viene suddivisa per colori in base alla gravità del contagio e tra le prime ad essere di nuovo quasi del tutto chiusa è la Lombardia, come annuncia il Premier Giuseppe Conte il 3 novembre. Dobbiamo necessariamente intervenire. Dobbiamo farlo per rallentare la circolazione del virus, in attesa di poter disporre, ci auguriamo quanto prima, di vaccini, di terapie risolutive. E poi ci sono le regioni dell'area rossa, con criticità alta. Sulla base dell'ultimo monitoraggio dell'ordinanza appena firmata dal ministro Speranza, vi rientrano Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. A queste regioni si applicano misure ancora più restrittive. In questo caso è vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e di salute. L'aumento significativo dei tamponi rispetto alla prima ondata porta il bollettino quotidiano su cifre che oscillano dai 10.000 ai 40.000 nuovi contagi al giorno, mentre resta drammatica la conta delle vittime, che supera in totale la soglia delle 65.000. L'Italia si conferma il paese europeo con la mortalità più alta, ma stavolta sembrano impressionare di meno e ben presto la discussione verte sulle misure per le feste natalizie. Al di là dei nostri confini, invece, la cancelliera tedesca Angela Merkel annuncia dal 16 dicembre un nuovo lockdown severo. Wir werden ab Mittwoch, ab dem 16. Dezember, den Einzelhandel schließen und nur noch für Lebensmittel. Perché le misure fin qui prese, ammette Merkel, non hanno funzionato e la crescita dei contagi è esponenziale. Il quadro dell'epidemia induce molti paesi europei, dalla Gran Bretagna all'Olanda, a nuove restrizioni in vista delle festività e alla fine così decide anche l'Italia, tra il divieto di spostamento tra regioni e nuove zone rosse e arancioni per i giorni festivi. Ovunque la parola d'ordine, infatti, è scongiurare la terza ondata. Novembre, Vienna, il terrorismo torna per le strade di una capitale europea. Nei giorni precedenti l'omicidio del professor Paty, la violenza islamista a Nizza. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. Avremmo voluto aprire con un ricordo di Gigi Proietti, che è morto nel giorno del suo 80° compleanno, e invece dobbiamo aprire con una notizia dell'ultima ora: un attacco armato vicino a una sinagoga a Vienna. C'è un morto, ci sarebbero diversi feriti, alcuni media parlano di un poliziotto che sarebbe morto. Cercheremo di darvi nuove notizie, aggiornamenti quando ci saranno su questa terribile notizia che arriva a pochi giorni dall'attentato di Nizza. 4 giorni fa, 3 morti, lo ricorderete, all'interno della cattedrale della città francese, e a 2 giorni dall'attentato contro un prete a Lyon. America's back. We're at the head of the table once again. I've spoken with over 20 world leaders. L'America è tornata, a dirlo è Joseph Robinet Biden Jr., meglio noto come Joe Biden. Lo fa il 7 novembre scorso, quando in un voto complesso, pieno di incertezze, di denunce e di resistenza, si chiarisce che sarà lui appunto il successore di Donald Trump alla Casa Bianca. Cambio della guardia che è fissato come d'abitudine nel sistema politico americano il prossimo 20 di gennaio. Con il voto americano e naturalmente con l'emergenza pandemica che continua a colpirci e a colpire le nostre città. L'anno si avvia alla fine, un anno che naturalmente ricordiamo anche per amici, possiamo chiamarli così, personaggi famosi che magari non conosciamo ma che abbiamo imparato ad amare, così Sean Connery, Gigi Proietti, Diego Armando Maradona, Paolo Rossi, ecco, tutti quei personaggi, naturalmente, come dire, mi scuso per il fatto di citarne solamente quattro, che a livello internazionale hanno proprio rappresentato un tempo, il tempo che scorre. Ed eccoci dunque alla conclusione di quest'anno davvero eccezionale, senza dubbio, di quest'anno che cerchiamo di raccontarvi almeno una parte di questa memoria in questi giorni di festa. E dunque è un mio davvero piacere condividere gli auguri da parte di tutta la redazione, di tutte le persone che lavorano a Radio 24 e che quotidianamente lavorano per raccogliere, raccontare, cercare di spiegare gli eventi del nostro tempo. Gli auguri a tutti voi, carissimi ascoltatori, di un buon Natale, di un felice anno nuovo. Lo so, quest'anno più che mai ci sentiremo prestissimo per continuare il nostro racconto. Da Gigi Donelli per adesso è tutto. Grazie ancora di essere sempre con noi. A presto.